Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ed eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno e grazie per averlo scaricato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi in maniera da avere un aggiornamento costante sul vostro smartphone o sul vostro browser internet. Quando arriva il podcast di Effetto Giorno, quando è pronto, vi ritrovate una piccola notifica che non disturba, vi dice semplicemente che c'è la puntata da scaricare. Gli argomenti di oggi, molto dedicheremo all'economia nella puntata di oggi perché ci sono i dati sulla disoccupazione, ci sono una serie di decreti attuativi in arrivo, quelli riguardano il TFR, la riforma del mercato del lavoro, c'è l'accordo sempre in tema di lavoro fatto a Melfi per il lavoro su 20 turni, un accordo non sottoscritto dalla FIOM. E poi ci sarà occasione anche di parlare di agenda digitale. Per quanto riguarda la politica, ci sono le primarie del PD in Campania che tengono banco e c'è anche la riunione del Consiglio federale della Lega. Per l'estero abbiamo il giorno che precede i funerali dell'oppositore Boris Nemtsov, come sapete assassinato con 4 colpi di pistola, e poi l'uccisione da parte dei poliziotti americani di un uomo, un senza tetto di colore a Los Angeles, che potrebbe far montare la rabbia. Infine il calcio, quello giocato e quello no, quello non giocato come sempre è la vicenda del Parma, come sempre in queste settimane, quello giocato ovviamente è l'attesa per Roma-Juventus e comunque un campionato che tutto sommato è divertente nella seconda parte della classifica, insomma, per tutti quelli che sono dietro alla Juventus e alla Roma. Iniziamo dai dati sulla disoccupazione. Migliora, anche se lievemente, il fronte disoccupazione nel mercato del lavoro. Da un lato, buone notizie su base mensile. Scende ancora a gennaio per il secondo mese consecutivo il tasso di disoccupazione, che si attesta al 12,6%. L'Istat, infatti, sottolinea come dopo il calo di dicembre, durante il primo mese del 2015, la disoccupazione in Italia ha registrato un'ulteriore diminuzione di 0,1 punti percentuali, tornando sullo stesso livello di 12 mesi prima. Su base annua, però, è record, 12,7%. Non era così ai massimi dal 1977. L'occupazione invece cresce. Dopo 2 anni di calo, nel 2014 ci sono 88.000 persone in più che lavorano. Ed è in lieve calo anche la disoccupazione per giovani dai 15 ai 24 anni, al minimo da 17 mesi, comunque su livelli di guardia, scesa a gennaio 2015 al 41,2% e nel 2014 al 42,7%. Sottraendo i giovani inattivi, 4 milioni e mezzo circa, poco più di un giovane su 10 è disoccupato. E ancora boom dei part-time, oltre 4 milioni, e il 2015 è iniziato bene per le donne, con una lieve crescita, lo 0,2%, delle occupate. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Istat ha diffuso non solamente i dati del mese, ma anche i dati per l'intero 2014. La disoccupazione si è attestata complessivamente in media al 12,7%. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5% del PIL, in aumento, manco a dirlo, di 0,1 punti percentuali rispetto al 2013. Sono diminuiti gli investimenti del 3,3%, consumi rimasti al palo, e questo lo sapevamo. Il debito italiano è salito dal 128,5% del PIL nel 2013 al 132,1% del PIL. Siamo ai massimi dal 95. Per quanto riguarda il PIL medesimo, è diminuito dello 0,4% rispetto al 2013 e siamo sotto ai livelli del 2000. Queste sono le stime definitive dell'Istat per quanto riguarda il 2014. Si cercano di arginare i problemi economici, tanto la questione dei consumi quanto quella della carenza di lavoro, con una serie di provvedimenti. Dovrebbero arrivare in Gazzetta Ufficiale in settimana i decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro e quelli che riguardano il TFR in busta paga, il servizio. Il mercato del lavoro si prepara ad un mese di marzo all'insegna delle novità. Con la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a breve entreranno infatti in vigore sia il Jobs Act sia le nuove norme sul trattamento di fine rapporto, e fra gli addetti ci si inizia già ad interrogare sui loro effetti. Per quanto riguarda il Jobs Act, al momento gli unici dati dati disponibili sono quelli dell'indagine periodica di Unioncamere sulle previsioni occupazionali nei settori dell'industria e dei servizi per il primo trimestre 2015. Il sondaggio prevede un saldo occupazionale positivo di quasi 8.400 unità. Nello stesso trimestre dello scorso anno lo studio prevedeva invece un saldo negativo di oltre 14.000 posti di lavoro. Sembra quindi migliorare il clima di fiducia delle imprese. Si prevede invece una partenza in salita per le novità sul TFR, la cui quota mensile da marzo, su richiesta, potrà essere anticipata in busta paga, secondo un sondaggio di Confesercenti. Per ora a chiederlo sono stati appena 6 dipendenti su 100, mentre un altro 11% vorrebbe farlo entro la fine dell'anno. Oltre l'80% degli intervistati ha detto invece che continuerà a lasciare il TFR in azienda mantenendo intatta la liquidazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lavoro dunque, e sul tema del lavoro rimaniamo per parlare dell'accordo che è stato firmato oggi per quanto riguarda la fabbrica della Fiat di Melfi. Abbiamo raggiunto Gianluca Ficco della UILM, che è uno dei firmatari. Tra l'altro la FIOM non ha firmato questo accordo, si prevede un'estensione del lavoro su più turni. Ci spiega esattamente come funziona proprio Ficco, ascoltiamolo. Si istituiranno 20 turni lavorativi, il che significa che i lavoratori, fermo restando naturalmente le 40 ore settimanali, che quindi non varieranno, però si alterneranno in maniera tale da coprire da lunedì alla domenica la produzione. Questo consentirà di affrontare il picco produttivo che i modelli Fiat stanno fortunatamente registrando in termini di vendite sul mercato, favorito anche dall'euro debole che favorisce le esportazioni in particolare verso gli USA della Renegade, e permetterà molte assunzioni. Nell'accordo si parla addirittura di circa 1.000 assunzioni a regime stabili strutturali. Altri elementi rilevanti, e poi che l'accordo per il momento ha un valore sperimentale, perché sia noi sia l'azienda, prima a maggio con una prima tappa di monitoraggio e poi a luglio dovremo verificarne l'andamento, l'impatto e anche dei vantaggi retributivi non da poco. Sì, guadagneranno mediamente 1.400 euro all'anno in più rispetto ai 15 turni lavorativi, Ficco, no? Più o meno la cifra è questa? A seconda del livello, da 1340 ai 1430, quindi circa 1400. E anzi, se si va a paragonare il regime dei 20 turni con un regime che non ha nemmeno la notte, un regime per esempio quello che nella stessa Melfi si fa sulla linea dell'appunto di 12 turni, l'incremento sarebbe addirittura molto superiore, addirittura andrebbe oltre 4.000 fino ai 5.000 euro a seconda del livello di appartenenza. Quello quindi che possiamo dire e che con l'accordo, quindi minimo 1.400 euro in sostanza, sì, minimo 1.400 euro. La FIOM contesta questo accordo, l'ha fatto direttamente il leader della FIOM Landini, un pessimo accordo sui turni e gli orari di lavoro, quando non hai più spazio di vita dice chiaro che hai un peggioramento. Ma non comprendo fino in fondo nel merito queste critiche per due motivi. Innanzitutto la FIOM ha firmato con noi tanti accordi che prevedono il cosiddetto ciclo continuo, quindi fermo restando le 40 ore settimanali, l'alternarsi del giorno di riposo e la copertura tutta la settimana. Quando si lavora di sabato e o di domenica si riposa qui, in altro Ficco, giorno. Ficco, quindi lei sta dicendo in sostanza che la FIOM ha votato no a questo accordo perché la Fiat di Melfi è un simbolo? Potrebbe esserci questo, anche se io non amo, diciamo così, interpretare la volontà altrui. Di certo è che questo accordo non solo non aumenta l'orario di lavoro perché resta 40 ore, ma anzi in concreto rende meno faticosa la situazione, perché oggi il picco produttivo lo si affronta attraverso gli straordinari e quindi i lavoratori stanno lavorando 48 ore in media a causa del continuo e ripetuto ricorso agli straordinari. Una volta che ci saranno i 20 turni, gli straordinari verranno meno in maniera definitiva e quindi anzi l'orario di lavoro complessivo si abbassa, si riduce, non si alza. Altro provvedimento all'ordine del giorno sul quale sta ragionando il governo in queste ore, sulla modalità nella quale farlo, è quello per la banda ultralarga, ossia estendere la velocità della rete in Italia, per dirla molto, molto semplicemente, un provvedimento che naturalmente potrebbe e mirerebbe ad aiutare aziende e cittadini nei collegamenti su internet. Abbiamo chiesto al nostro Enrico Pagliarini di fare un punto, perché domani questa cosa dovrebbe essere in Consiglio dei Ministri e a quanto pare c'è anche qualche contrasto e qualche discussione. Partiamo dal problema. siamo agli ultimi posti nell'Unione Europea per diffusione e velocità della rete internet e anche purtroppo per l'uso che facciamo della rete internet, quindi c'è sia un problema di infrastruttura e uno di utilizzo dei servizi. Allora, il governo col piano nazionale banda larga cercherà di porre rimedio al primo di questi problemi, mettendo in campo regole e soprattutto fondi di varie origini, molti sono fondi europei, per incentivare gli operatori ad investire soprattutto nelle zone a fallimento di mercato dove comunque il ritorno dell'investimento non è certo. Parliamo di 6-7 miliardi di euro fino al 2020. Allora, l'obiettivo è coprire l'85% della popolazione con connessioni a 100 megabit e il rimanente a 30. Stiamo facendo riferimento, il governo fa riferimento all'agenda digitale europea. Il governo è fortemente orientato ad incentivare investimenti che portino la fibra ottica fino ai palazzi o fino all'appartamento, la famosa fiber to the home, e questa sarebbe un'infrastruttura che, dicono i tecnici, è a prova di futuro, che guarda i prossimi 10-20 anni, quando a casa avremo bisogno di, che ne so, un gigabit, eccetera, eccetera. Allora, però, sul modello di rete da utilizzare c'è però chi la pensa in modo diverso, soprattutto gli operatori telefonici, in primis Telecom, che vorrebbero invece spremere ancora la rete in rame. Dal loro punto di vista questo ha un senso, oggi ci sono tecnologie che spingono pur con qualche problema verso i 50, i 100 megabit sul doppino telefonico, ma dicono molti tecnici poi tra qualche anno ci troveremo da capo. Se abbiamo ancora pochi secondi, sì, vi cito brevemente anche un altro. Sì, allora, a fianco di tutto ciò c'è una partita industriale, ma anche molto politica, estremamente importante. Cito Metroweb, che è una società controllata dal Fondo Strategico Italiano e anche da Cassa Depositi e Prestiti, cioè potrebbe essere il veicolo per costruire, se non tutta la rete, una parte di questa nuova rete sul modello Milano, quindi fibra ottica aperta a tutti gli operatori. Ma Telecom naturalmente vede questo come un attacco alla propria posizione attuale. Telecom, ricordiamo, che controlla la rete, ma ovviamente un modello in cui ci sia un operatore terzo che gestisca la rete in modo neutrale, indipendente rispetto a tutti gli operatori, sarebbe auspicabile. Altro tema collegato all'agenda digitale è la fatturazione nella pubblica amministrazione e fatturazione elettronica. Il 30 marzo c'è una scadenza importante perché da quel momento tutte le amministrazioni pubbliche devono fare la fatturazione elettronica. Le preoccupazioni riguardano, come naturale, prevalentemente i piccoli comuni. Con Guido Castelli, sindaco di Ascoli, responsabile finanza locale dell'ANCI, abbiamo cercato di fare un punto, gli abbiamo chiesto innanzitutto, ma insomma, siete pronti oppure no? I piccoli comuni hanno qualche difficoltà, tanto è vero, sono tutti in attesa di capire se in questi ultimi 25 giorni ci potrà essere tutta una serie di investimenti e di concentrazioni che riguardano soprattutto la riorganizzazione dei singoli uffici dei comuni, perché è un grande processo che al di là del lato informatico riguarda proprio la rivisitazione di determinate procedure. Il fatto è che spesso e volentieri i nostri ragionieri, i nostri dipendenti sono riprese proprio a marzo con una congerie tale di appuntamenti e scadenze che purtroppo la fatturazione elettronica risulta essere o è percepita come uno dei tanti adempimenti burocratici che, come dire, offusca anche la vista. Lei pensi che solo 31 marzo, che è la data entro la quale deve essere avviata la fatturazione elettronica, i ragionieri devono avviare anche il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate, certificare il patto di stabilità del 2014, approvare in consiglio il bilancio di previsione del 2015, insomma sarebbe bene concentrarsi su alcuni adempimenti senza subissare però i nostri uffici di carta e cartacce che nulla. Brutalmente Castelli, ce la fate oppure no per il 31 marzo? Noi siamo pronti e ce la faremo, anche se inizialmente la scadenza era giugno, poi il decreto 66 ha anticipato al 31 marzo. Faremo di tutto per farlo, le città medie e grandi sono assolutamente in grado, qualche piccolo pensiero ce l'abbiamo per i piccoli comuni che del resto sono un pochino la cenerentola del sistema dei comuni, cercheremo di aiutarli. L'IFEL in particolare, che la nostra fondazione, sta opportunamente dando le direttive del caso. Insomma, ce la facciamo, però dico, Renzi, non mandarci altri adempimenti in questo momento perché già siamo non gliela fate. Tanta burocrazia, tanta, troppa. Siamo alla politica con le primarie del Partito Democratico per quanto riguarda la Campania e le Marche, in Campania soprattutto precedute da grandi polemiche con Roberto Saviano, che ha detto non andate a votare, queste primarie così come sono fatte non vanno bene, la gente che c'è è legata al passato, c'è il rischio di inquinamento, tutte domande che abbiamo girato al vice segretario del Partito Democratico, Lorenzo Guerini. Io vorrei sottolineare la grande partecipazione che comunque c'è stata, c'è stato detto che le primarie sono uno strumento che mostra qualche difficoltà dal punto di vista della partecipazione dei cittadini, della fedeltà dei cittadini a partecipare a questo istituto, però in realtà 160.000 persone si sono recate a votare nelle primarie in campagna, 43.000, quasi 44.000 nelle Marche, credo che sia un segno positivo. Secondo luogo, insomma, in campagna si diceva che le primarie non si potevano fare perché erano ancora nella memoria di molti tra noi, insomma, lo svolgimento delle primarie precedenti, quelle per il sindaco di Napoli. In realtà c'è stata una partecipazione molto ordinata, mi pare, sì, ci sarà qualche contestazione di qualche voto in alcune realtà, però mi sembra un dato abbastanza fisiologico perché i nostri regolamenti prevedono la possibilità di presentare ricorsi in situazioni particolari, però non vi sono state, diciamo, situazioni patologiche, e anzi io credo che ci sia stata una grande partecipazione. Dopodiché ho ascoltato la riflessione di Saviano, che, come dire, ascolto sempre con molta attenzione. Mi pare che il rischio che è stato presentato da Saviano non si sia verificato, perché in realtà la partecipazione è stata molto ampia, ma anche molto, molto libera. Non ho visto e non mi sono state riportate anche da chi abbiamo inviato dalla segretaria nazionale a seguire lo svolgimento delle primarie situazioni particolari. Dopodiché, come tutti gli strumenti, possono essere perfezionati. Il caso ne è citato del suo collega che si è recato a votare più volte, sicuramente è un elemento su cui bisogna riflettere. Però insomma è uno strumento di partecipazione per chi vuole partecipare utilizzando questo strumento come va utilizzato, sì. Cioè una partecipazione vera della base del centro-sinistra, del Partito Democratico, quando le primarie sono del PD, a scegliere i propri candidati per le elezioni comunali e regionali. Ne abbiamo fatte centinaia in tutta Italia e in molti casi sono state, diciamo così, l'occasione anche per liberare energie, per muovere energie e disponibilità che attraverso meccanismi tradizionali forse non sarebbero state sollecitate. Brevemente, per quanto riguarda il numero di votanti, no? In Campania è stato elevato, e però abbiamo il paradosso che una città come Salerno, che conta 130.000 abitanti e che è la città di Vincenzo De Luca, il vincitore ha espresso quasi più voti che Napoli. Non rischia di essere una candidatura zoppata a questo punto, Guerini? Ma non è la prima volta che succedono cose di questo tipo, nel senso che dove c'è un candidato molto radicato in una porzione di territorio, questa, come dire, il voto in quella parte di territorio, diciamo così, non è proporzionale rispetto all'altra parte regionale. Però sì, devo dire che De Luca ha avuto un ottimo risultato anche a Napoli, perché è stato... Sì, ma dico in termini sotto di quantità di voti proprio, no? di migliaia di voti espressi tra Salerno, che è di fatto una piccola città, insomma, e rispetto a Napoli, che è una metropoli vera e propria, insomma. Sì, ma non credo che questo sia legato a una considerazione negativa di Napoli rispetto alla candidatura di De Luca o quella di Cozzolino. Diciamo che a Salerno la mobilitazione che De Luca riesce a produrre è una mobilitazione molto forte, questo sì, ma non è la prima volta che lo fa. Tra l'altro è stato uno dei sindaci con maggior indice di gradimento in Italia, quindi insomma diciamo che c'è questo rapporto molto intenso con la sua città. Però insomma è evidente che poi le elezioni non si vincono con solo con il candidato alla presidenza della regione, ma con un lavoro corale di tutto il partito e di tutta la coalizione che deve essere costruita e che insomma deve essere protagonista della campagna elettorale. Non c'è solo un candidato, insomma. L'altro fronte politico di questa giornata è la Lega, che riunisce il suo Consiglio federale. Vincenzo Miglietta. Consiglio federale del Carroccio con due temi all'ordine del giorno. Un primo bilancio a mente fredda della manifestazione di sabato a Piazza del Popolo contro il governo Renzi, e poi, come anticipavi, il caso delle regionali in Veneto. Su questo secondo punto, il più importante, resterebbe in ballo anche l'ipotesi della nomina di un commissario di fiducia che trovi una sintesi fra Luca Zaia e Flavio Tosi sulle liste e le candidature, ipotesi che questa mattina il sindaco di Verona ha però definito inaccettabile. Non ci sono i presupposti, ha detto Tosi, perché è lo statuto della Lega a dire che i candidati e le alleanze le decidono i territori e non Milano. Il compito di Salvini allora in queste ore è quello di evitare pericolose spaccature nel partito. Quanto alla manifestazione di sabato, le critiche al carroccio delle altre forze politiche sono intanto sulla presenza in piazza di militanti di estrema destra. Di questo ha parlato Maroni, ospite a Radio 24 di Alessandro Milana. Sentiamo questo passaggio. Maroni, una cosa che sicuramente ha spiazzato molti è il fatto che ci fossero anche estremisti di destra, Casa Pound, addirittura qualcuno che inneggiava Mussolini nella piazza. Saranno stati pochi, ma questa cosa a lei non imbarazza? Guardi, la piazza era la piazza, non è che l'abbiamo fatto in un teatro controllando gli ingressi. Chi voleva venire, il tema era Renzi a casa, ok? Tutti quelli che sono fuori di Renzi a casa potevano venire e sono venuti. Dopodiché non tutti quelli che c'erano in piazza la pensano come noi e viceversa. Siamo all'estero con due storie che vogliamo affrontare. Innanzitutto i funerali dell'oppositore di Putin, Nemtsov, che si svolgeranno domani. Un appuntamento importante al quale avrebbe voluto partecipare anche un noto blogger anti-Putin, e però gli è stato impedito. La cronaca di Gigi Donelli. Domani dunque appuntamento a Troie-Kurovskoye, così si chiama questo cimitero, e forse vale la pena di sottolinearlo perché in fondo credo faccia parte della storia. Qui siamo in un cimitero a 20 km dal centro di Mosca, dove peraltro è sepolta anche Anna Politkovskaya, che fu uccisa con una stessa arma Makarov che ha ucciso invece appunto Nemtsov venerdì sera. Questo dunque l'appuntamento per domani, appuntamento a cui ha chiesto di partecipare anche il leader, possiamo così dire, o comunque il più popolare tra gli oppositori, Alexei Navalny. Navalny non potrebbe partecipare perché sta subendo una pena di 15 giorni per disturbo alla quiete pubblica per avere manifestato in piazza. Questo è un po' il paradosso di questa situazione. Nella manifestazione di ieri ben 52 persone hanno subito lo stesso problema. Questi sono chiaramente dei meccanismi che impongono e escludono la partecipazione delle persone dagli eventi pubblici. Insomma, quello che si attende domani è un funerale. Ancora una volta si conteranno le persone, ma la sensazione è che sarà, se non intimo, comunque una presenza piuttosto raccolta. Le indagini intanto proseguono e naturalmente c'è molta preoccupazione per gli sviluppi. C'è stata una polemica riguardo alle telecamere del Cremlino e così via. Vale la pena forse notare invece che è stato liberato dal Ministero degli Interni russi il deputato ucraino Alexei Gonciarenko, quindi arrestato, lui dice malmenato durante la manifestazione. Ora lui è libero di partecipare, o meglio è libero to court, ed è quindi nelle condizioni di partecipare al funerale di domani. Ecco, ancora una volta l'opinione pubblica, la stampa governativa ha creato questa connessione tra il movimento della protesta e il Maidan, e quindi l'immagine anche di questi deputati ucraini presenti nella piazza di Mosca sono stati utilizzati anche in questo senso, non certo per creare, insomma, delle condizioni di dialogo. Ultima segnalazione ci porta invece dritto proprio in Ucraina, dove Petro Poroshenko, quindi il presidente dell'Ucraina, ha firmato la richiesta formale e quindi l'appello all'ONU e all'Unione Europea per dispiegare una forza di pace nell'est del paese. Quando lo aveva annunciato, Mosca e i ribelli dell'est avevano protestato, ora lui ha depositato la proposta, staremo a vedere cosa succede. Siamo negli Stati Uniti adesso. L'audio che sentite è quello di alcuni poliziotti americani che hanno ucciso un senza tetto ieri a Los Angeles, un senza tetto di colore. Le riprese sono state effettuate con un telefonino da un testimone, mostrano una violenta lite tra un uomo e diversi poliziotti in un quartiere popolare alla periferia di Los Angeles. Butta l'arma, si sente gridare nel video, prima che risuonino appunto 5 colpi di pistola. La polizia al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, si sa per certo che ci sono 3 agenti sospesi in attesa che vi siano chiarimenti. Il rischio a questo punto è che monti un po' di rabbia a Los Angeles. Siamo al calcio, come si diceva in apertura, calcio giocato e calcio non giocato. Il calcio non giocato è l'aggiornamento ormai quotidiano sulle vicende del Parma. Se il fallimento non fosse alle porte, coi creditori all'uscio che si portano via i pezzi, la crisi del Parma sarebbe una farsa con un capocomico di talento, il sindaco Gianpietro Manenti, che ogni giorno ne inventa una per tenere alto il morale. Ieri ha detto che vuole vendere la società a una struttura importante e che però tutti dovranno sopportarlo ancora. Il sindaco Pizzarotti, sfinito, lo ha definito un interlocutore poco credibile, ma intanto il presidente resta Manenti. Tutto questo in una domenica senza Parma-Genoa, con più di 1000 tifosi a Collecchio che fanno festa ai giocatori impegnati in un amichevole in famiglia. Uno scenario un po' grottesco, da picnic sull'erba mentre a 100 metri piovono le bombe. Certo, la solidarietà è importante, ma le scadenze si avvicinano e sono già due le partite annullate. E poi la prossima, dopo l'assemblea di Lega del 6 marzo, sarebbe quella di domenica al Tardini con l'Atalanta. Già butta male, visto che sono state portate via le panchine, e neppure rassicurano le parole del presidente di Lega Beretta, che continua a ribadire di non avere responsabilità e che tutti i controlli sono stati fatti nel migliore dei modi. Come dice quella canzone, sempre allegri bisogna stare. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine il calcio giocato, l'attesa è tutta per la partita tra Roma e Juventus, che si svolgerà questa sera e che, insomma, per quanto modifichi la classifica, è difficile che porti la Juve a perdere il campionato. E soprattutto però si guarda a chi è un po' più indietro di Roma e Juve, il campionato si fa decisamente avvincente. Carlo Genta. Torino e Fiorentina sono le due squadre del momento on fire. Torino, tra l'altro, leggevo ora, nel 2015 sarebbe primo in classifica, 19 punti totalizzati, non perde da quel gol all'ultimo respiro di Pirlo nel derby. Ieri ha battuto il Napoli, c'è stata una sorta di sceneggiata napoletana di Benitez che si è presa, a mio parere abbastanza inutilmente, con l'arbitro, perché le colpe e responsabilità e i meriti sono altri. Quanto alla partita scudetto di questa sera, beh, scudetto, ex partita scudetto, perché basta leggere la classifica attuale: Juventus 57, Roma 48, sono 9 punti, sono un cuscino morbidissimo per la Juventus. Ieri il treno buono l'hanno preso appunto la Fiorentina, il Torino, se vogliamo, la Lazio certamente, l'ha perso l'Inter, lo ha perso il Napoli. È un campionato alle spalle della dominatrice Juventus molto aperto, molto incerto, molto, se vogliamo, anche molto divertente. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno. Per la parte tecnica oggi i ringraziamenti vanno a Pietro Lacorte, i ringraziamenti vanno come sempre a voi tutti per averlo scaricato. Mi raccomando, come vi ho raccomandato in apertura, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se l'avete scaricato per caso non vi disturba. È una piccola notifica che vi dice: è arrivato il podcast di Effetto Giorno, poi sta a voi decidere se scaricarlo oppure no. I nostri contatti: Effetto Giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook, il mio account Twitter, Simone Spezia. Ci si sente domani alle 13:00.